9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno ascoltatori, buongiorno e buon giovedì 26 di novembre da Oscar Giannino. Per introdurre il tema della giornata e per introdurre il percorso che faremo, che vi chiederò di fare insieme a noi, approfondendo la realtà della sanità nel nostro paese, intanto vediamo come è stato introdotto in due diverse occasioni dal ministro dell'economia Giulio Tremonti. Sentiamo il Tremonti 1 a Capri al convegno dei giornali di Confindustria. Lo stato attuale non è particolarmente buono. Veniamo dall'incontro con le regioni, il patto sulla sanità, un patto che tra l'altro si è chiuso con forti elementi di risparmio, dato che il delta di spesa sulla sanità verrà finanziato dalle regioni a statuto speciale. Ma è stato un buon patto, ma dentro quel patto quello che ha impressionato tutti è che metà della sanità, tutta la sanità del meridione, è in default. Quella che doveva essere l'eccezione, inventammo nella finanziaria fatta in 38 ore nel 2005 sul 2006 il commissariamento delle regioni in default, ma pensavamo fosse un'eccezione, è diventata la regola. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. E c'è un fondamentale problema di legalità dietro la sanità. La sanità non può essere un'industria, è un servizio pubblico. E ci sono enormi limiti della classe politica nella gestione della sanità. E non si può continuare con la triade troppo influenzata dalla malavita degli appalti, dei fondi europei e della sanità, appunto. Ed è per questo che credo è fondamentale il federalismo fiscale, per introdurre degli elementi di controllo democratico, di responsabilità civile, di efficienza generale. Quando si dice la spesa improduttiva, beh, una quota enorme della spesa in Italia è anche improduttiva per effetto della dispersione causata da un eccesso di centralizzazione. Ma non è possibile che una protesi costi in un posto 4 volte di quanto costa nel nord. E quando si dice costi standard significa che i costi devono essere quelli più alti, e possono essere quelli più alti, i costi della Lombardia, ma non è giusto che le famiglie meridionali hanno la metà e al sistema costa il doppio. Questo non è più accettabile, e questo è il grande discorso che dobbiamo e possiamo fare insieme sulla spesa improduttiva. Dunque, questo era il Tremonti 1, lo avete sentito, metà della sanità in default, quella del mezzogiorno, inventammo il commissariamento delle regioni credendo che fosse un'eccezione, invece lo abbiamo dovuto applicare quasi come di regola, non è tollerabile che chi costa il doppio della Lombardia abbia metà della Lombardia, e così proseguendo. Ora il Tremonti 2, quello che è intervenuto martedì mattina all'Assemblea dell'Unione degli Industriali Romani. Ma voi pensate che sia tagliabile la sanità? La sanità in Italia costa, e questo ormai fatto il patto si può dire, costa meno della media europea e nell'insieme ha un rendimento superiore alla media europea. Non ci sono ricette magiche e sarebbe poco responsabile prestare credito a guaritori, dottori stranamori e figure che ti presentano ricette salvifiche. Ma voi pensate di andare in giro a dire un operaio ti riduco l'IRPEF ma ti riduco la sanità? Ecco, il Tremonti 2 sembra molto diverso dal Tremonti 1. Sicuramente il timore di adottare ricette di cui poi si smarrisca il controllo per strada vince sul Tremonti 1 che faceva un'analisi spietata e che vive quel Tremonti 1 negli atti già assunti dal governo, visto che 5 regioni italiane sono state o commissariate o avviate al commissariamento per via dei conti sanitari. Non spetta a noi dare giudizi, ma questa è la fotografia di un paese che nel mentre indica un problema, dall'altra, per il timore di smarrire la regia della complessità della sua soluzione, poi dice, beh, ma forse è insolubile, ma forse in definitiva questa sanità costa non troppo, che dobbiamo fare? Ecco, allora oggi vogliamo tentare di capire in maniera un pochino approfondita come si possono analizzare i costi della sanità italiana adottando un criterio, quello a cui si riferiva il ministro, quello della qualità a fronte dei costi, per tentare di individuare una delle pietre angolari di quello che fin da sempre ci è stato promesso sarà il federalismo fiscale, e cioè l'identificare dei costi standard a fronte di qualità di prestazione offerta, e intorno a questo costo standard per qualità di prestazione offerta costruire una griglia risorse proprie in base alle quali quindi le regioni, la cui maggior competenza è la sanità, si autoequilibrano finanziariamente, e dall'altra si può pensare anche a un meccanismo di solidarietà equitativa tra le diverse regioni, ma il punto è appunto quello di definire dei costi standard per prestazione. Con chi lo facciamo oggi? Lo facciamo con chi ha dedicato insieme ai suoi collaboratori a questa questione uno studio molto approfondito che è di poche settimane fa, e lo presento, è Fabio Pamolli. Buongiorno Pamolli. Buongiorno, buongiorno. Pamolli è il direttore del CERM, è un centro studio che si occupa di competitività, regolazione e mercati, a Radio 24 già lo conoscete, e scrive analisi, note anche per il Sole 24 Ore. Allora Pamolli, iniziamo innanzitutto da una questione preventiva. Quando si tratta di mettere mano ai costi della spesa sanitaria pubblica e a eventualmente indicare come correggerli, ci sono innanzitutto dei problemi tecnici, per così dire, cioè come si calcola, come si inizia a calcolare, si fa una spesa pro capita, individuiamo prima i problemi tecnici preventivi, prima di entrare nel merito delle conclusioni del rapporto. Ma noi abbiamo cercato di dare una risposta a questo interrogativo partendo da poche variabili che sono note per dare una spiegazione, per influenzare la spesa sanitaria. Siamo partiti da un indicatore grezzo di spesa sanitaria pubblica pro capite, dopodiché abbiamo introdotto delle variabili esplicative che sono variabili legate al contesto socio-economico, quindi alle differenze di PIL pro capite o di tassi di attività e di tassi di occupazione, la percentuale di anziani soli ed altre variabili che possono differenziarsi da regione a regione. Abbiamo introdotto controlli per la struttura demografica, perché è noto che la struttura demografica, la quota di popolazione per fasce di età, ha ovviamente delle influenze nella differenziazione della spesa sanitaria. Abbiamo introdotto delle variabili di controllo sugli stili di vita, quindi analizzando se esistono, in che misura esistono delle differenze di stili di vita tra i diversi territori del paese, e infine abbiamo introdotto delle variabili di controllo per la dotazione di capitale fisico e di medici del sistema sanitario, perché sappiamo che anche l'offerta e la struttura dell'offerta influenza poi la domanda e la spesa. Questo per dire che siamo passati, rimanendo a una spesa pro capite aggregata, quindi non andando a disaggregare il costo standard per singola prestazione, poi dirò perché ritengo che questo approccio sia in questa fase preferibile rispetto a quello della chimera del costo standard della singola prestazione, siamo rimasti a un livello di stima di una spesa standard aggregata, cioè a dire abbiamo analizzato l'andamento medio della spesa pro capite ponderata con quelle variabili che ho menzionato lungo un decennio, e abbiamo analizzato gli scostamenti della spesa effettiva, della spesa che si desume dalla contabilità delle regioni rispetto a valori di tipo standard, e quindi siamo andati a misurarci quanto le singole regioni si scostano da una spesa che ragionevolmente tiene conto di tutte quelle differenze a cui facevo riferimento. Allora iniziamo a vedere appunto in questa graduatoria di spesa pro capite delle diverse regioni rispetto alla media chi sta su, chi sta sulla mediana, chi sta sotto. Ma se noi passiamo da un quadro di spesa pro capite grezza dove vediamo che le regioni del Mezzogiorno, quindi senza introdurre ponderazioni, vediamo che le regioni del Mezzogiorno, la Basilicata è la regione che ha la spesa lungo questo periodo di riferimento più bassa, la Puglia e la Calabria in termini pro capite, e passiamo invece a una spesa pro capite che controlla per quelle variabili, vediamo un'inversione, un capovolgimento dello stivale, cioè vediamo che le regioni del Mezzogiorno sono regioni per le quali si pone un gravissimo problema di politica economica. Da questo punto di vista è anche comprensibile la cautela di chi fa riferimento, come anche il ministro Tremonti, alla necessità di introdurre riforme che tengano conto della natura del sistema sanitario, perché queste regioni del Mezzogiorno hanno una spesa pro capite non ponderata più bassa della media, ma hanno spesso una spesa pro capite standardizzata sensibilmente al di sopra della media, cioè a dire per il livello di manifestazione di quelle variabili esplicative, per come è composta la struttura della domanda e dell'offerta di servizi sanitari in quelle regioni ricevono poco ma dovrebbero spendere ancora meno. Se poi si introduce una Devo su questo invitare a chiarire meglio, perché sono convinto che molti a casa non hanno capito tra la differenza tra la spesa pro capite media, cioè tra la spesa pro capite e lo scostamento dallo standard, per così dire, perché non è così facile, senza un grafico in mano, senza numeri, fare capire perché chi ha la spesa pro capite più bassa a propria volta però c'è la deviazione standard più elevata, che ne so, dal Friuli, e quindi si dovrebbe spendere ancora meno, come ha detto. Dice, come? Ha appena detto che spende di meno, perché dovrebbe spendere meno? Perché avendo controllato per tutte quelle variabili che da un lato spiegano la manifestazione, l'atto di spesa, quindi spiegano la spesa, spiegano sia la domanda che l'offerta di servizi sanitari, vediamo che il livello di spesa effettivo delle regioni che ho menzionato va al di sopra di quanto ci si dovrebbe aspettare, tenendo conto in una prima fase dello studio delle variabili che spiegano l'andamento della spesa, quelle a cui facevo riferimento prima, la presenza di fasce di età avanzata degli over 65, la presenza di in termini di percentuale di anziani soli, la presenza di strutture sanitarie in termini di posti letto, in termini quindi anche di composizione dell'offerta. Ecco, sulla base di queste variabili esplicative e poi sulla base di un altro set di indicatori che abbiamo introdotto, che sono di controllo di qualità delle prestazioni erogate, si vede che quelle regioni che hanno una spesa, come dire, standardizzata, cioè che tiene conto di che cosa effettivamente viene erogato ai cittadini e di quale effettivamente sarebbe la domanda di servizi sanitari che sarebbe lecito aspettarsi dal confronto tra le diverse regioni, si vede che queste regioni spendono troppo sia per come si manifestano in quelle regioni le variabili che influenzano la spesa, sia, e arrivo a un punto ancora per certi versi più preoccupante, per il livello di qualità dell'assistenza che erogano. Quindi c'è una sorta di componente della spesa che nel caso della regione Campania arriva al 32% del totale della spesa sanitaria pubblica di quella regione, che non risulta spiegata né dalla qualità delle prestazioni che vengono erogate in quella regione, né dalla composizione della domanda di servizi sanitari in quella regione. Vediamo se ho capito. In Campania, dove la spesa pro capite di sanità media è 1200, più o meno 1215 euro, sì, la spesa pro capite, ce ne sono quasi 450 su 1215 a testa, che sono di discostamento dallo standard qualitativo rispetto al Friuli. E così un terzo di quel che si spende pro capite in Campania non si giustifica. È esattamente questo, ed è, noi abbiamo fatto poi, naturalmente, abbiamo preso il Friuli perché in questa analisi lungo un decennio era la regione che aveva lo scostamento dalla spesa standard che ci si sarebbe attesi sulla base delle variabili esplicative, quindi è una sorta di spesa teorica che, intendendo a livello medio la struttura delle variabili esplicative, ci saremmo attesi in quella regione. Ebbene, la Campania ha, esattamente come lei diceva, uno scostamento che è pari a circa il 31,9% tra la spesa che ci si sarebbe attesi, sarebbe stato lecito attendersi, e la spesa che invece si è registrata. Oh, e vogliamo dire le regioni che stanno messe, vengono subito dopo in questa graduatoria di chi si discosta di più? La Sicilia, che ha uno scostamento attorno al 24%, quindi su una spesa pro capite effettiva media lungo il decennio considerato tra il 97 e il 2007 di circa 1155 euro, a un aggiustamento richiesto per andare sulla quella che noi definiamo frontiera efficiente di circa 285 euro pro capite. Questo significa uno scostamento del 24,7% tra spesa effettivamente registrata e spesa che ci si sarebbe dovuti attendere se la Sicilia fosse stata presente, diciamo, a un livello di convergenza verso la media. La stessa considerazione per la Puglia, attorno al 23%, il Lazio attorno al 17%. Poi ci sono due regioni del nord, Trentino Alto Adige e Liguria, che pur avendo livelli elevati di qualità, almeno questo secondo le nostre analisi, hanno però una spesa pro capite elevata, standardizzata, elevata, attorno al 17% nel caso del Trentino e attorno al 14% nel caso della Liguria, lo scostamento, e poi abbiamo Abruzzo, Molise e via a scendere, con regioni come molto diverse tra di loro, tra l'altro, anche come organizzazione del sistema sanitario, come Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto e poi alcune delle regioni più piccole che citava prima, Friuli ed Umbria e le Marche, che invece dimostrano di avere uno scostamento dal valore standardizzato più basso, quindi dimostrano di aver realizzato un allineamento più forte tra spesa standard e spesa effettiva. Ora ci prendiamo una pausa, un secondo per la pubblicità e poi ricominciamo. Io prego chi è in ascolto anche di telefonare, ricordo numero 800 24 00 24. Oggi avete visto abbiamo una struttura un po' diversa, ma perché per fare ordine un po' nei numeri bisogna procedere con un po' di ordine. Le questioni complesse non hanno risposte se non un minimo complesse. Eccoci tornati in studio, abbiamo sentito il ministro Tremonti, prima molto preoccupato, poi dicendo invece sempre sulla sanità che è un po' delicato intervenire. Stiamo tentando di approfondire chi e come indicare e capire tra quelli che spendono più degli altri e con minore qualità degli altri, per poi arrivare alla conclusione, perché questa sarà la conclusione a cui arriveremo, del quanto si può risparmiare e come dopo aver fatto questo percorso. Intanto alcune telefonate e poi riprendiamo con il nostro ospite che è Fabio Pamolli, il direttore del Centro sulla competitività, regolazione e mercati. Allora cominciamo con Matteo. Matteo da Bergamo, prego, dica. Sì, mi sentite? Sì, benissimo. Ecco, io sono un medico, io ho avuto la possibilità di lavorare 8 anni a Londra come primario, poi sono tornato in Italia. Quindi lì ho visto un po' lo scenario, per esempio, del sistema inglese, comparandolo poi, essendo un centro internazionale Londra, con il sistema spagnolo, insomma tutti i sistemi europei, compreso quello americano e australiano. Qual è la sua specializzazione, ora, se posso chiederglielo? Io ho psichiatria. Ah, benissimo, sì. Ecco, la nostra considerazione, cioè mia e tutti i colleghi un po' italiani che si discutono di queste cose qui, è che qui non si tratta del sistema italiano, del federalismo o non federalismo, si tratta che in questo momento tutti i sistemi sanitari sono col fiato alla gola per un sistema semplicissimo, che non ci sono più soldi per finanziarli. E quindi l'Inghilterra è messa peggio dell'Italia in questo momento, perché tagliano, addirittura chiudono servizi, cosa che in Italia non sarebbe neanche concesso. Quindi la nostra posizione è semplicissima, che il problema non è un problema italiano, tanto meno di federalismo, problema di fondo, noi siamo convinti che è un problema monetario, cioè che la moneta debito, il fatto che gli stati non possono più stamparsi il proprio denaro, li mette col fiato alla gola e quindi sono impossibilitati a dare ai cittadini quel servizio che potrebbero dare, perché le risorse ci sono in tutti i paesi, i professionali ci sono. No, Matteo, non capisco le risorse. No, Matteo, non capisco cosa stai dicendo. Cioè, le risorse, cosa consisterebbero? Nello stampare col torchio moneta pubblica? No, stampare col. Sì, ah. di sottrarre alle banche. No, guardi, Matteo, no, guardi. Non credo che. Sì, se ne può discutere, d'accordo, però non è che i sistemi sanitari in equilibrio sono quelli che si fanno col torchio monetario. Matteo, no, abbia pazienza, mi prendo la responsabilità di dire che se stiamo su i costi comparati e poi vedremo qual è il problema anche di estendere al privato la necessità di fare i conti proiettati nel tempo che diano sostenibilità al sistema, è un conto. Se dobbiamo dire che bisogna andarci di torchio pubblico perché solo così i sistemi sanitari erano efficienti, mi perdoni Matteo, non sono d'accordo, perché è una sciocchezza. Ecco. Stefano da Padova, prego. Buongiorno. Dica. In realtà io credo che, sono un medico anch'io, che il problema sia non tanto nella quantità di risorse quanto nella razionalizzazione dell'uso di queste risorse, perché faccio un esempio banale, le scissioni di un tumore della pelle costa al sistema sanitario 1.600 euro. Qualsiasi specialista che venisse accreditato personalmente per fare lo stesso intervento in un ambulatorio privato e con le stesse garanzie di sicurezza e di professionalità potrebbe fornire lo stesso servizio a 1.000 euro, guadagnandoci sopra parecchio. Altro esempio banale, poi chiudo, ultimamente i budget sanitari delle strutture private sono, per quanto riguarda gli atti operatori, sono budget numerici e non economici. Lei capisce bene che se devo fare 1.000 interventi in un anno, faccio 1.000 interventi che valgono 20.000 euro e non gli interventi che ne valgono, e neanche un intervento che vale 1.000. Cosa succede? Che abbiamo case di cura che fanno esclusivamente protesiche, certo, e non si possono curare molti altri pazienti che ne hanno di bisogno e che hanno anche delle patologie gravi. Mi è capitato di dover mandare un paziente dai carabinieri per poter essere operato da me, in maniera tale che l'USL di provenienza gli pagasse privatamente l'intervento alla struttura pubblica privata convenzionata dove opero. Mi dica se questo è normale. No, certo. Comunque l'evoluzione della sanità ultimamente è quella di risparmiare non fornendo servizi e prestazioni ai pazienti, perché si dice che la richiesta, cioè l'offerta fa la richiesta. Questo può essere vero per quanto concerne le visite, ma non certo gli interventi. Uno non si fa venire un tumore sulla pelle solo perché sul territorio ci sono tanti medici che possono operarlo. Chiarissimo, grazie a Stefano. Alessandro da Mantova, prego Alessandro. Sì, buongiorno e vi ringrazio dell'intervento. Volevo solo chiedere, io lavoro nel settore farmaceutico e da anni vedo uno scagliarsi contro questo settore per ridurre la spesa farmaceutica. No, veramente altro che scagliarsi, è il settore in cui da anni abbiamo introdotto un meccanismo di cofinanziamento obbligato attraverso una parte degli utili del settore che va a coprire il deficit di spesa, cioè è un sistema di esproprio pubblico su questo settore, e avviene solo in questo settore, a dire la verità. Quindi... Guarda, io poi parlato da 8 anni lavoro nel settore del farmaco equivalente, che ha ridotto la spesa singola di alcuni farmaci anche del 50-60%, sì. E mi domando come ancora oggi, venendo additato tempi addietro la spesa farmaceutica come uno dei maggiori responsabili della spesa sanitaria, perfettamente consapevole che in realtà non è così, ancora oggi i conti non tornano. Quindi per carità, io ho lavorato spesso anche in ambienti ospedalieri con le aziende farmaceutiche precedenti e mi sono reso conto, toccato con mano io e anche diciamo dialogando con alcuni primari, alcuni direttori di farmacia, dello spreco che c'era. Le faccio un esempio banalissimo e poi rimango in ascolto delle vostre considerazioni. Io sono stato una volta in un reparto ospedaliero, in corridoio c'erano ben 3 operai per cambiare 3 piastrelle di linoleum per terra. Hanno impiegato una giornata per cambiare queste 3 piastrelle di linoleum. Le confesso, era una cosa estremamente scandalosa, ma questo è solo un esempio. Dove... E la mia domanda è praticamente dove si pensa di andare a rassare, pur considerando, mi scusi il termine rassare, che io ritengo che un servizio sanitario di primo ordine e civile debba essere o comunque in pari come gestione, è impossibile che monetizzi, ma sarebbe già un miracolo lasciarlo in pari come spesa, ecco, a questo punto. Grazie, grazie. L'ultima chiamata a Marcello da Milano. Prego Marcello, breve, dica. Sì, buongiorno. Niente, una considerazione riassuntiva. Io lavoro da 20 anni in questo settore, nel settore biomedicale, non ho mai assistito a una situazione drammatica come questa di tagli, indistintamente viene tagliato proprio l'acquisto di materiale o altro, addirittura sono a conoscenza di alcune emodiamiche che sono quasi a chiudere il servizio, alcune hanno dovuto anche chiudere temporaneamente, questa è una cosa gravissima. Ma la cosa che mi turba di più è che mentre l'amministrazione e i direttori sanitari ottengono diciamo vantaggi economici sul rispetto del budget a fine anno, questo viene fatto a costo di tagli sistematici sui costi dei materiali, sono d'accordo, ma nessuno si chiede cosa succede nel pubblico in termini di persone e di numero di personale. Ci sono ospedali che hanno ci sono delle ASL che hanno un numero doppio di amministrativi rispetto ai medici e persone infermieristiche. Questo è un esempio di spreco, ma questi sono tagli che non vengono effettuati. Il cittadino non si rende conto di quello che sta succedendo, però effettivamente sono situazioni estremamente drammatiche. Chiunque opera nel settore ne ha conoscenza. Grazie Marcello, io non so se sia drammatico, io so che rispetto ai numeri vivo in un paese in cui da sempre sento parlare con allarme crescente di tagli, tagli, no? Tagli in italiano significa incidere qualcosa e ridurlo, levargli un pezzo. Allora, i numeri dicono un'altra cosa, io non so che dire, non credo che mentano i numeri. Allora, ricordo i numeri relativi all'accordo del 23 ottobre scorso, governo-regioni. Visto che i numeri della sanità si fanno così tra governo e regioni. Allora, è un accordo triennale. Allora, per l'anno 2010 il Fondo Sanitario Nazionale sale a 106,2 miliardi di euro, che corrispondono sull'anno precedente, cioè sul 2009, a un aumento, non un taglio, un aumento del 2,3%. Ecco. Dopodiché, nell'anno successivo, l'aumento sarà di altri 2,4 miliardi, cioè per il 2011. Dopodiché nell'anno successivo sarà di altri miliardi, si arriva a 108,6 miliardi, fino a salire alla fine del ciclo a 111,6 miliardi di euro rispetto ai 106,2 di quest'anno. Quindi io i tagli, francamente, non li vedo. Ma invece da sempre si parla per tagli nella sanità, ma in tutto il settore pubblico, perché rispetto ai budget delle unità di spesa del settore pubblico, che sono sempre di spesa incrementale, quindi si chiedono dotazioni incrementali in aumento, in un aumento maggiore rispetto agli aumenti che verranno concessi, si dice ecco il taglio. Quello non è un taglio, perché in un budget incrementale in maniera asintotica, cioè verso funzioni sempre più elevate, anche se io ti do di più, come i numeri dicono che si dà di più di anno in anno, quello viene spacciato come un taglio. Allora io naturalmente su questo lo dico perché chi è a casa deve essere aiutato un pochino a capire. Allora torniamo con Pamoli. Avevamo visto come ci sono un bel po' di regioni che si distaccano, diciamo, da un livello di spesa qualità. Si è parlato del Friuli come punto di riferimento, mettiamoci anche dentro l'Umbria, lo fate nel vostro rapporto, vero? Ecco, abbiamo visto come ci siano un bel blocco di regioni che si discostano con una percentuale elevata. Andiamo avanti nel ragionamento, perché poi bisognerà arrivare alla fine a individuare qual è la cifra più o meno di tutti questi risparmi. Ecco, dopo aver fatto questo ragionamento, il rapporto cosa diceva? Ma io mi collego anche a quanto sentito dagli ascoltatori. Per riprendere un'immagine che è stata utilizzata dal ministro Tremonti e aggiungerci un pezzetto, direi che è bene non avere il dottor Stranamore e non avere il dottor Pangloss, perché è vero che altri sistemi sanitari hanno problemi architetturali di finanziamento e di dinamica della spesa simile al nostro, ma è anche vero che non è in questa analogia che dobbiamo cercare una facile risposta, che è quella di dire allora aumentiamo l'emissione di debito, aumentiamo le risorse che immettiamo nel sistema. Noi da questo punto di vista abbiamo cercato di soffermarci in questa analisi su una eterogeneità fortissima, non spiegata. E questo non è un attacco alla unitarietà del sistema sanitario nazionale sul territorio nazionale. Questa è una misurazione che dà degli elementi fattuali a un'analisi che poi in altri campi tutti citiamo. Cioè, quando vediamo che gli ospedali calabresi sul singolo evento hanno un livello di qualità delle prestazioni molto basso, e tutti ci lamentiamo sul singolo fatto. E poi però non è stato fatto un ponte, non è stato costruito un ponte che collega quelle micro inefficienze di cui abbiamo conoscenza. Il fatto che il sistema sanitario nel Mezzogiorno abbia svolto per anni una funzione impropria di ammortizzatore sociale, il fatto che ci siano degli oneri del personale che non sono giustificati in molte regioni dalla qualità del servizio, dall'esigenza del servizio, ma sono giustificati da altri meccanismi di clientele elettorali, di meccanismi appunto di surroga rispetto ad altre attività che non si sono realizzate. Questi sono fatti che a livello micro condanniamo, ma non si è cercato di andare a trarre delle conseguenze in termini di margini di efficienza e di qualità delle prestazioni a livello macroeconomico. A noi vengono fuori delle cifre, per rispondere alla sua domanda, secondo le quali È chiaro che non si potrà fare overnight, non si fa dalla sera alla mattina, ma secondo le quali la regione Campania ad oggi è fuori di circa 3 miliardi di euro all'anno di spesa rispetto a quanto non ci si aspetterebbe se la Campania fosse allineata sulla cosiddetta frontiera efficiente, cioè se avesse un comportamento allineato più o meno con quello del Friuli, dell'Umbria, del Piemonte, della Lombardia, ecco, di queste regioni che si stanno comportando in modo più o meno omogeneo, con degli scostamenti tra di loro che sono, come dire, riconducibili a una variabilità statistica e interpretabili. Allora, fotografia finale di questo rapporto che ci sta illustrando Pamolli. Qui ci sono 9 regioni che, una volta individuati i livelli standard di qualità a cui far convergere il sistema, abbiamo detto Friuli e Umbria, dovendoli ridurre di una spesa pro capita ben superiore al 10% per ciascuna regione, fino al limite del 32% della Campania, del 24% tra Sicilia e così via, facendo la somma di questa deviazione recuperabile si ottengono 11 miliardi di euro. E quindi la risposta da cui siamo partiti è che nella sanità, sì, è vero, ci sono ampi margini riscontrabili, identificabili con criteri oggettivi di risparmi possibili. Sono tagli, come vengono detti tutti, non è sono tagli, perché se noi vogliamo ottimizzare al meglio la gestione, penso che dobbiamo farlo e possiamo farlo con un criterio, no o no? Che dice Pamone? Assolutamente. Quella dei tagli è una delle mistificazioni più forti che ci portiamo dietro nella storia della Repubblica, in questo caso specifico in modo ancora più marcato a partire dal 2000, con l'introduzione di un decreto che è il decreto 56 del 2000, che introduce nominalmente il federalismo, introduce nominalmente i costi standard, ma le introduce senza che ci sia poi stata una governance, un governo di questo cambiamento. Cosa è accaduto? È accaduto che si sono registrati sistematicamente degli sforamenti della spesa effettiva rispetto al budget e rispetto alle previsioni, nella migliore tradizione delle economie pianificate e del comportamento delle unità economiche all'interno del piano, perché si diceva: questo è il mio budget. Se io lo rispettassi, nel futuro mi dovrei vincolare a un livello di spesa che è basso, perché una volta raggiunta l'efficienza mi inchioda, e quindi a me, tutto sommato, unità del sistema sanitario, conviene essere inefficiente, perché poi Pantalone arriva e ripiana. E il taglio si è verificato rispetto a questo differenziale, come lei correttamente osservava prima. Quindi questa mitologia del taglio in sanità è veramente un elemento dal quale discostarsi, così come un elemento dal quale discostarsi, a mio avviso, è quello dell'utopia del calcolo del costo standard per singola prestazione, come cruscotto di governo di convergenza. Perché quando andiamo a calcolare il costo standard della singola prestazione, io ho avuto qualche confronto interessante al riguardo, mi si dice: ma no, ma la struttura dei costi in Campania o in un'altra regione è completamente diversa, la cosiddetta funzione di produzione della singola prestazione è completamente diversa da quella di altre regioni, oppure: ma non consideri l'incidenza dell'orografia in Sicilia, oppure eccetera. E quindi si apre un contenzioso rispetto a una matrice immensa di costi unitari insolubile per fare paragone. Certo. Allora abbiamo adesso un secondo, Pietro da Napoli, che credo ci chiami dalla direzione di un'azienda sanitaria. Prego, Pietro. Non è una direzione, però si lavora in un'azienda sanitaria. Sì. Buongiorno, io in realtà il mio contributo era questo. Secondo me la sanità va vista come il terminale del sistema. È vero, è verissimo che c'è possibilità di razionalizzare il sistema, da noi sicuramente, di migliorarlo, però è vero anche che è un insieme di cose che bisogna verificare, perché poi alla fine i costi sono la risultante di una serie di fattori. I servizi sociali che non funzionano, per esempio, molto spesso sono un problema, per cui il servizio sanitario regionale, per esempio, vanta dei crediti nei confronti degli enti locali. Pietro, posso ragionare un secondo con lei per evitare di cadere nel famoso benaltrismo che ogni volta che si... Noi stiamo parlando di sanità. Se lei mi dice però a Napoli c'è ben altro, e io lo so. No, ma per carità, non è una giustificazione, non deve esserlo, per carità, anche perché realmente altrimenti il cambiamento non si attua. Però è vero pure che ci sono una serie di fattori da considerare. cioè spessissimo si dice che le tarie sono varie, per cui è difficile riuscire, cioè la paura del costo standard personalmente è quella che in qualche modo mette insieme le mele con le pere. In che senso? Se noi ci troviamo di fronte ad un tessuto sociale dove i livelli culturali sono molto bassi, dove a volte c'è bisogno di mediatori culturali non per i cittadini non comunitari, ma a volte per i cittadini italiani, insomma, per i nostri cittadini, è difficile riuscire a paragonare un servizio che viene effettuato in Friuli rispetto a quello che viene effettuato nel Mezzogiorno d'Italia. La questione del perché le regioni meridionali hanno sforano molto spesso il budget deve essere anche correlata forse ad una serie di fattori che sono legati al reddito pro capite, alla, ma perché la sanità diventa un integratore di reddito? Perché significa che io devo assumere molta più gente nel sud. Ma se lei mi fa un discorso di reddito pro capite? No, aspetti. Accesso ai servizi sanitari. È molto probabile che nel momento in cui ho un reddito molto alto si sceglie il medico che preferisce. Nel momento in cui ha un reddito più basso si sceglie il medico che passa al servizio pubblico. Allora Pietro, io la ringrazio per aver giustamente ci ha fatto riflettere sulla diversità e l'eterogeneità delle caratteristiche economiche delle diverse aree in cui si offrono i servizi. Detto tutto questo, c'è una componente del contributo, cioè quella parte privata del sistema sanitario che anch'essa, vero Pamolli, va compresa in una logica di equilibrio del sistema pluriennale, perché sennò noi ignoriamo la lezione americana che è più privata che pubblica, ma non, la delicatezza di toccare il 17% del PIL come gli Stati Uniti poi esplode come sta esplodendo attualmente nelle mani dell'amministrazione. Che considerazioni fare per la parte privata complementare? Forse va esteso l'incentivo alla gente per accumulare negli anni piani di investimento individuali che poi tornino sulla necessità di finanziare un servizio anche per la componente privata o no? Lei che pensa? La risposta è sì, prima però di entrare nel merito di questo voglio lasciare agli ascoltatori un elemento di riflessione. Intanto all'ultimo ascoltatore dico che è esattamente perché controlliamo per queste forme di eterogeneità e di queste fonti che siamo in grado di arrivare a una stima del costo standard. Ma un elemento di riflessione, prima di passare alla sua domanda, se me lo consente, rapidissimo, è questo. Nell'ultimo patto per la salute si è detto, e lo Stato ha detto alle regioni, guarda, nel momento in cui tu hai un deficit sulla sanità, io ti consento un'operazione che non sarebbe, come dire, lecita, cioè ti consento di attingere ai fondi per le aree sottosviluppate, i cosiddetti FAS, che dovrebbero essere destinati a spesa in conto capitale, per ripianare il deficit, roba da far rizzare i capelli. Ma quello che però chiedo io Stato a te Regione, che sei fuori, è di attuare dei programmi di razionalizzazione della struttura ospedaliera chiudendo gli ospedali marginali. Allora, gli ascoltatori è bene che sappiano che ci sono regioni italiane che hanno deciso di non utilizzare questa opportunità pur di lasciare intatta la struttura della rete ospedaliera. Quindi... Grazie Pamolli, io la devo interrompere e io ricordo che la conclusione alla cui siamo arrivati oggi con gli studi di Pamolli e dei suoi ricercatori è che sono 11 miliardi che si possono agevolmente risparmiare nella sanità con indicazioni, sono nel sud soprattutto, sono nel sud ma non per questioni razziali o per questioni etniche, perché lì funziona diversamente e però funziona peggio rispetto a quello che costa. Non credo che si debba accettare l'idea del ministro Tremonti 2, quella che ci dice che invece la sanità oggi è intoccabile perché costa come nella media europea. Io preferisco il Tremonti 1. Bene, appuntamento a domani, ora linea giornale radio, grazie in regia Piero Paolo Corleoni e Alessandro Marco Turni in redazione. A domani. 9 in punto.